Femmana, tu sei una malla femmana, chi sto che fatte chiangere, lacrime infame da. Femmana, se tu peggio una vepra, mentre se cade l'anima, non posso più cambare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Te voglio bene, t'odio, non ti posso scordare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve ben ingannare. Non ti posso scordare.